Il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Oggi parliamo degli imperscrutabili misteri della mente e parliamo di quelle persone capaci di entrare nella testa delle persone bisognose. Una donna che oggi ha superato gli 80 anni, però a lungo ha fatto parlare di sé creandosi attorno un alone di santità e di stregoneria. Gigliola Ebe Giorgini. Tutti la conoscono come Mamma Ebe. Gigliola Ebe nasce il 17 marzo del 33 a Pian del Voglio, una frazione del comune di San Benedetto Val di Sambro. Siamo in un paesino sulle colline romagnole, c'è anche il casello dell'autostrada, tra le valli del Sambruzzo e del Sambro, vicino a un corso d'acqua che si chiama appunto Rio Voglio, ed è qui che nasce Gigliola, ragazzina dagli occhi verdi, penultima di quattro figli. La famiglia vive a Palminio, nella campagna pratese. Lei a 12 anni inizia già a fare parlare di sé, perché è una bambina tutta casa e chiesa, si diceva una volta. Sogna di diventare suora, di prendere presto il velo, come la sorella maggiore, suora Adele delle Minime dell'Addolorata. E lo sogna così bene spesso che comincia a raccontare fin da piccola di essere in contatto diretto con la Madonna. Una mattina mi trovavo in chiesa quando sentii pronunciare chiaramente il mio nome. Era la Madonna, la quale mi chiedeva di soffrire per l'umanità peccatrice e di fare del bene. Questo è quello che Gigliola racconta al suo confessore, una richiesta. E il confessore padre Ubaldo, il sacerdote, non le crede, non crede nemmeno alle confessioni che seguono, perché lei comincia a convincersi di operare guarigioni, di avere ricevuto le stigmate, però quando le mostra agli altri sono stigmate un po' strane, diciamo invisibili agli occhi degli estranei. Quello che invece ha sono gonfiori alle mani e ai piedi. I genitori cominciano a pensare che soffra di diabete. Intanto l'idea di farsi suora le passa. Quando è una ragazza, Ebe, che peraltro è anche carina, alta, ha un sorriso, si fa notare, entra a lavorare in una fabbrica a Prato, fa l'operaia tessile nella Prato antecedente all'invasione cinese. A 20 anni si innamora di un contadino, uno che la segue per strada, si chiama Fosco Ugolini, un omone grande e grosso che lavora ai telai della sua fabbrica, e così nel giugno del 53 si celebrano le nozze. La coppia va a abitare a casa di lui, in casa Ugolini, nel Podere Consuma a Loretino. La casa è la classica dimora colonica toscana, piena di mosche, insetti, polli. Il lavoro non manca mai, come in tutti i poderi. Lei si ammala presto, la suocera la sgrida e le ripete in continuazione: se non eri sana, non ti dovevi sposare. La malattia di Gigliola è veramente insolita. I medici non riescono a spiegarla. Lei soffre in silenzio, ma prega. Prega molto, inizia a avere delle visioni strane, soprannaturali, dice al marito di vedere la Madonna, arriva addirittura a un mattino in cui lei racconta che è proprio la Madonna a dirle che per guarire deve andare al santuario di Padre Pio. E Gigliola ubbidisce, va da Padre Pio e naturalmente guarisce. Quando torna in Toscana sta bene, comincia a curare la gente in nome del famoso frate di Pietrelcina, e tutto prosegue bene fino a quando non arriva via posta una lettera del padre provinciale di Foggia che la diffida dall'usare il nome e il prestigio del sacerdote. Intanto le stigmate spuntano di nuovo, si tratta di escoriazioni alle mani, ai piedi, al costato, alla fronte. Lei racconta che le si secca il nervo ottico e che ormai è cieca, però riesce a vedere solo perché aiutata spiritualmente. Anche ora sono cieca. Ho sempre l'angelo custode al mio fianco per guidarmi. Questa è una delle sue frasi mentre opera. Prosegue a guarire la gente, si conquista la fama di guaritrice in tutto il territorio pistoiese. La chiamano la Santona di Loretino. Peraltro è giovane, bella, gli occhi maliziosi, gentile con tutti e accoglie cordialmente i devoti con le mani coperte da mezzi guanti, dice a tutti di pregare. Le sue unzioni sono rapide, non costano nulla. Lei accetta solo oboli, carni, formaggi, cibarie. La leggenda vuole che un giorno sia arrivato da lei anche un indemoniato, benedetto e unto da lei con olio santo, e che alla fine l'uomo abbia addirittura sputato un enorme rospo dalla bocca. Insomma, casa sua diventa presto una meta di pellegrinaggi di devoti e anche di tante persone che sono lì solo perché cercano la guarigione. Il falco e il gabbiano. Dall'alba al tramonto arrivano persone da tutta la zona di Pistoia e dintorni, persone che sperano in un miracolo da parte di questa donna che a questo punto tutti cominciano a chiamare Mamma Ebe. Lei porta il paziente di turno nella sua stanza, che è appositamente dedicata alle cure. È una stanza metà camera da letto e metà santuario, con le candele accese e lumini. Insomma, una immagine molto suggestiva, soprattutto per le menti più fragili. E insomma, l'attività va molto bene. Lei si compra un'auto, il marito prende la patente. In casa arrivano alcune ragazze che si convertono a un ordine che non esiste, ma che lei vorrebbe fondare. In casa inizia a vivere anche Giorgio Milan, un frate laico reduce da un periodo di eremitaggio in Abruzzo. Così le cose, insomma, si fanno sempre più grandi. La chiesa deve intervenire. Il parroco del paese avverte la curia, il vescovo decide di togliere alla donna i sacramenti e la benedizione del podere, ma la cosa sembra non spaventare Mamma Ebe, che ormai è diventata celebre, molto popolare, non ha più bisogno dell'autorità della chiesa. Il primo incidente di percorso è del febbraio 57. La polizia arriva nell'aia di Loretino a sirene spiegate. Il commissario entra in casa, trova la santona a letto, bendata alla testa e alle mani. Però lui non si lascia commuovere, l'avvisa sulla gravità del reato che sta commettendo, perché c'è un articolo del testo unico di pubblica sicurezza che vieta il mestiere di ciarlatano e lei sta rischiando parecchio. Lei ascolta, ma appena il commissario torna da dove è venuto, ricomincia, come avviene in Italia, ricomincia a fare quello che ormai fa una professione, ricomincia a regalare benedizioni. Qui noi curiamo il mal d'amore e il mal di testa, facciamo guarire dall'insonnia e dal cancro, dalla sterilità e dalle brutte compagnie. Venite da Mamma Ebe, signori, venite e abbiate fede. Mamma Ebe prosegue con le sue benedizioni, però capisce che la tensione, l'attenzione nei suoi confronti sta crescendo troppo. Così decide per uno spostamento, deve cambiare aria, perché anche, diciamo, la sua azienda sta crescendo molto. Così, dopo qualche mese, compra una bella villa a pochi chilometri da Montecatini, a San Baronto. Quella che era fino a quel giorno la santona di Loretino diventa la santona, la maga di San Baronto. Siamo nell'estate del 57. La sua carriera prosegue senza sosta, divorzia dal primo marito, si risposa con Umberto Battaglino. A San Baronto di Lamporecchio, insieme a cinque sorelle, fonda la sua congregazione, mette in piedi una piccola clinica raccontando di essere laureata in medicina e in ostetricia. Così la sua fama si estende in tutta Italia, fino al 1980, che è l'anno dell'inizio dei veri guai giudiziari, perché da quel momento in poi viene messa sotto accusa più riprese per reati che vanno dall'estorsione al plagio psicologico dei suoi seguaci. Con la diagnosi in faccia e per tutti era uguale, ammalato di fame, incapace a pagare. Qualcuno comincia a farle i conti in tasca, si dice che lei stia guadagnando qualche milione di lire al giorno e comincia a comprare proprietà immobiliari, uno yacht per rilassarsi, pellicce, gioielli. E nel 1980 inizia la lunghissima serie di guai giudiziari per mamma Ebe. Viene arrestata dopo la denuncia di un agricoltore che l'accusa di avergli sequestrato la figlia e di avere preteso 10 milioni di lire per le sue cure. Da quel primissimo processo voluto dalla magistratura di Lucca, dove peraltro si comincia a parlare di microspie collocate dappertutto per controllare i sospetti, di storie infarcite di sesso, di psicofarmaci, la leggenda forse prende il sopravvento. Si parla di intimidazioni, minacce, soldi, lussi, pellicce. Lei comunque a questo primo giro viene assolta perché i suoi fedelissimi riescono a fare un muro attorno a lei, la difendono a oltranza dalle accuse di truffa, di estorsione, ovviamente di circonvenzione di incapace. Insomma, si fa 50 giorni di carcere e poi torna libera. Ma ovviamente la storia non è finita qui. Il marito Umberto amministra i soldi e quelli di questo fantomatico ordine di Gesù misericordioso e lo fa fino all'estate dell'83, quando viene cacciato perché alcune microspie rivelano una sua tresca amorosa. E così Umberto e una delle suore vengono processati dall'intera comunità di fronte alla santa, cioè a lei, come racconta il film che le dedica il regista Carlo Lizzani, che nell'85 ricostruisce la vita e i guai giudiziari di mamma Ebe. E tra i protagonisti compare anche Stefania Sandrelli. Figli miei, ecco qui l'uomo che avevo eletto a compagno della mia vita. Ed ecco qui la donna che aveva chiesto e aveva ottenuto la mia comprensione ed il mio aiuto. Ora ascoltate come questi due hanno mantenuto il sacro voto di castità che è alla base della nostra regola. Questo è il nome della mamma, sì. Vecchia strega schifosa. Che tu sia maledetta. Portateli via. Io non li punirò. Sarà la loro coscienza a tormentarli. Preghiamo per loro. E così l'intraprendente secondo marito Umberto viene cacciato perché lei, in realtà mamma Ebe, professa il voto di castità. Più volte in tribunale racconterà di quelli che lei chiama i rapporti, i matrimoni giuseppini, cioè come quello tra Maria e Giuseppe, insomma, in cui non succede nulla di interessante, ma lei è già pronta a consolarsi con un altro uomo, un seminarista, il suo segretario particolare, uno che la seguirà sempre, si chiama Gabriele Casotto, è molto più giovane di lei ed è in sua compagnia che i carabinieri di Vercelli nell'84 la troveranno. Lui è semisvestito, lei ha una camicia da notte rosa trasparente e al fianco due bottiglie di Dom Perignon sul comodino, e lei spiega ai militari che le bottiglie le servivano per digerire, però insomma il voto di castità direi che non è stato ottemperato fino in fondo. Il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando la storia di Gigliola Ebe Giorgini, conosciuta da tutti come mamma Ebe, una donna che ha diviso in due l'opinione pubblica. Da una parte un sacco di persone bisognose, quindi anche psicologicamente più deboli, che hanno visto in lei una religiosa, una devota a Padre Pio, una che faceva del bene, mentre diciamo la parte più laica, più forse più riflessiva del paese ha individuato in lei una imbonitrice che estorceva denaro a persone deboli, a persone in difficoltà, quindi peraltro insomma un reato anche abbastanza ripugnante. Quello che si sa è che è entrata e uscita molto spesso dalle aule di tribunale, Roma, Cesena, Vercelli, Pistoia, Forlì. Per lei e per i suoi fedeli collaboratori, diciamo la sua setta, le accuse sono state molte, molto pesanti: esercizio abusivo della professione medica, truffa aggravata, associazione a delinquere, somministrazione di medicinali pericolosi, estorsione a anziani malati con la promessa di una guarigione. Sono reati veramente gravi. Sentiamo uno stralcio del film su mamma Ebe del regista Carlo Lizzani. E cosa deve fare un cristiano di oggi? Vedere Cristo in tutte le persone che soffrono. Amare tutti, e non per denaro. Anche se oggi, coi tempi che corrono, disgraziatamente, il denaro serve. Serve a comprare yacht, champagne e pellicce. Serve a formare dei preti, come intendo io, che siano all'altezza dei tempi moderni. Anche l'autorizzazione della Chiesa. La Chiesa mi ha sempre detto d'operare e io ho operato. Anche se adesso tutti quei preti, quei vescovi, quei cardinali che mi avevano sempre sostenuta, sono tutti spariti. Passiamo al voto di castità. Lei, che è stata sposata due volte, che cosa intende per castità? La purezza. E per purezza? Qui stiamo perdendo del tempo, non è per parlare della mia verginità che siamo qui. Se fossi un uomo non avreste queste curiosità morbose per la mia vita sessuale. E di altro che dobbiamo parlare. Parliamo dei bisogni di questi ragazzi, dello sfascio che c'è nelle loro famiglie, del caos negli ospedali, nelle istituzioni, nella stessa chiesa e nel mondo intero. Eh sì, da questo film si desume anche che per determinate persone tutte queste parole possano essere molto suggestive, però le penitenze che mamma Ebe imporrebbe, almeno dagli atti processuali, sono terribili: vergate, l'obbligo di mangiare in ginocchio per giorni, la pulizia delle camerate con la lingua, la privazione del sonno, o addirittura si parlò di una crema irritante spalmata sul corpo del peccatore. Insomma, nell'87 la pubblica accusa durante il processo che si svolge a Vercelli chiede per mamma Ebe 10 anni di carcere e 7 per il marito. Il servizio del TG3 è andato in onda nell'aprile dell'87. La storia la racconta così. La pubblica accusa ritiene mamma Ebe di principali imputati colpevoli di associazione per delinquere, truffa, sequestro di persona, abuso della professione medica, abbandono di anziani e di altri reati minori. Ora la parola passerà alla difesa, che cercherà di controbattere alle prove presentate dal pubblico ministero, documenti dei quali emergono retroscene incredibili di questa falsa opera religiosa, dalle stigmate procuratesi da sola da mamma Ebe all'uso di psicofarmaci per i discepoli dissenzienti, dalle confessioni telefoniche delle suore all'incredibile ricchezza di ville, palazzi e depositi bancari e gioielli accumulati da mamma Ebe con i testamenti e i voti di povertà dei suoi discepoli, sostenitori di una disciplina medievale, ha detto il pubblico ministero, più che di una religione. E lei entra e esce dalle aule di tribunali, però prosegue la sua attività. I giornali si occupano di lei, però la gente continua a fare la fila per le sue guarigioni. Anzi, più il potere la aggredisce e più attorno a lei si compatta un popolo che le crede. E così due giornalisti della Vita in Diretta decidono di fare un'inchiesta, di munirsi di telecamere nascoste per cercare di capire come si muove questa donna vestita in modo dimesso, però con questo fortissimo carisma. E nel 2009 Francesco Ridolfi, che oggi è al Fatto Quotidiano, e Simona Giampaoli, che è una redattrice della RAI, si fingono interessati a farsi salvare dalla santona. Così si presentano a Villa Gigliola con una cartella clinica che ipotizza una sclerosi multipla. Lei propone una pomata di colore arancione a base di canfora e peperoncino. Però tutto questo è il caso che ce lo racconti proprio lui, Francesco Ridolfi. Buongiorno Francesco. Buongiorno, buongiorno a tutti. Qual è la prima impressione che hai avuto quando l'hai vista? Innanzitutto lei è una donna di gran fascino. Ah, ecco. Diciamo che c'ha l'umore un po' ballerino, tant'è che lei usava indossare le lenti a contatto verdi o celesti a seconda del suo stato d'animo. Lei in realtà diceva che quando metteva le verdi era in contatto con Dio e quelle celesti con la Madonna. È molto diffidente, è una persona molto diffidente, anche perché all'epoca insomma già aveva avuto dei problemi con la giustizia, certo. Era già stata condannata, eccetera, eccetera. Quindi quel giorno lì entrammo e piano piano cominciammo a prendere le distanze. Noi avevamo due microcamere, avevamo preparato una sceneggiatura. Io ho scelto Simona perché era una persona che insomma che dai nervi saldi, diciamo. Anche perché entrando in quella villa lì, le porte venivano aperte soltanto dall'interno della villa, i telefonini non prendevano, credo che siano stati schermati perché non prendevano assolutamente dal cancello in poi. Quindi diciamo che uno quando entrava là dentro stava lì e basta, insomma, in balia di lei e degli eventi. Facemmo un primo incontro in cui lei ci chiese, io gli mostrai questa famosa cartella clinica e recitammo la parte di un giovane, ossia io, un po' tonto, con dei genitori facoltosi. E la fidanzata è più intraprendente invece. Intraprendente, gli fece indossare degli anelli vistosi con diamanti a lei, insomma, per far vedere che eravamo... Certo. Polli da spennare. Esatto. Quindi, dato a buon fine questo primo incontro, lei mi diede un appuntamento per la settimana successiva ci presentammo di nuovo e a quel punto lei ci portò nel cuore della sua villa. Si scende una scalinata molto ripida e si entra in una stanzetta senza finestre. Lì c'è solo un lettino, quindi a quel punto noi avevamo cambiato anche la nostra strategia per fare le riprese, perché sapevo che io dovevo essere spogliato, quindi non ho potuto indossare nulla. Avevamo sistemato la microcamera in uno zainetto che per fortuna siamo riusciti a piazzare nel punto giusto e quindi siamo riusciti a riprendere tutto. Lei, diciamo che mi ha spalmato il corpo per circa un'ora con questa pomata che mi ha dato anche dei problemi, venne la febbre alta subito dopo. Nel frattempo fantasticava, raccontava delle sue vicissitudini, delle stigmati, dei suoi rapporti col cielo. E senti, ma tu sentivi un certo fascino? Oppure ti è sembrata subito una ciarlatana? No, io sapevo che era una ciarlatana, sì, no, certo. Però lei è un soggetto molto abile, molto fascinoso, sia nella gestualità sia nelle cose che dice, quindi... Lei, la strategia sua è di fare in modo che uno diventi suo adepto, così si spoglie tutti i suoi beni a favore della comunità. Certo. Tant'è che all'esito del processo fecero dei sequestri per diversi milioni di euro. E poi un'altra cosa, là dentro c'era un via vai di adepti, vivevano tutti là dentro, che mangiavano tutti insieme, che tenevano sott'occhio ogni movimento, tant'è che quel momento si è palesata, era difficile incastrarla, tant'è che poi io fui il testimone chiave di quel processo, perché gli adepti che ci hanno ripensato e che poi l'hanno denunciata ce ne stava soltanto una. Perché tu sei arrivato alla fase in cui ti ha chiesto dei soldi o comunque ti ha chiesto di entrare? No, non mi ha mai chiesto soldi. Lì la fase successiva mi avrebbe dovuto fare una puntura nel midollo spinale, che però francamente... va bene tutto, dici però... E poi durante il processo c'era dietro ai banconi dell'aula, c'erano una serie di adepti che poi dopo ci guardavano male, facevano delle battutine quando stavamo fuori. Cioè ancora convinti, diciamo, di malgrado sì, tutto. Lì a Pistoia proprio si respira un'aria particolare, sono molto religiosi e sentono questa cosa del... Sì. Della presenza del Mabba Ebe, si respira in ogni angolo, si respirava almeno in ogni angolo della città. E poi insomma appunto durante il processo cercarono di mettermi in difficoltà, tant'è che feci anche una battuta, perché gli avvocati mi dicevano: sì, ma lei con l'inganno si è introdotto in un'abitazione privata, tant'è che io alla fine dici: sì, ho capito, ma tra me e mamma Ebbe vogliamo pagare a chi prende in giro certo. Prende in giro le persone, insomma, mi sembra ridicolo. Tu avevi profanato, esatto, il tempio, avevo profanato la sua fiducia, certo. Eri tu che avevi tradito la fiducia di lei. Certo. Francesco, sei stato preziosissimo nel ricomporre questo strano puzzle italiano. Complimenti a te e a Simona Giampaoli per il vostro sangue freddo e il vostro spirito di iniziativa. Male sorti, confrontandomi con le giusprime notti. E anche se i riflettori dei media e degli inquirenti sono ben accesi su di lei, mamma Ebe non smette mai di procacciare pomate miracolose, di praticare guarigioni, benedizioni al telefono, insomma guadagna sempre cifre da record con oboli e con laute donazioni. Nel tempo le vengono confiscati oltre 10 milioni di euro, ville, automobili di lusso. Nel 2010 un altro servizio del TG1 dà voce a una delle donne che si sono fatte circuire dalla Santona. L'arresto ieri di mamma Ebe, la guaritrice di Carpineta, al TG1 il racconto di una delle tante seguaci truffate dalla Santona. Emma D'Aquino. Vedevo persone che erano malate di cancro, ma veramente poi sono morte. E le venivano curate con delle cose palliative, delle punture come mi venivano fatte a me nella schiena. Da queste punture praticamente mi ha corroso i dischi delle vertebre. Antonietta è stata una seguace di mamma Ebe, una delle migliaia. Lei ha dedicato anni della sua vita, speso energie e denaro. Io non ho prove, nel senso di assegni, perché lei voleva tutti i soldi liquidi, quindi non dimostrabili, però io gli ho dato più di 200 milioni. La denunciai nel 2000. E nonostante la verità dei fatti, ci sono ancora centinaia di persone che continuano a frequentarla, a fare donazioni e a fare atti di gettiti di denaro nei suoi confronti pur di ottenere una guarigione o anche solo una benedizione. Quindi evidentemente questa donna ha una forza di persuasione veramente incredibile, anche se è chiaro che stiamo parlando di persone rese fragili dalle loro malattie. E poi c'è questo retroterra culturale, fatto di magia, di superstizione, poi c'è la paura, ce lo racconta anche Patrizia Santovecchi, che è il presidente dell'Osservatorio Nazionale Abusi Psicologici. Mamma Ebe intorno a sé ha persone o ha avuto persone che comunque avevano grossi lutti, grosse malattie, grosse perdite, per cui un bisogno di riscatto, di ritrovare una tranquillità o ritrovare, per così dire, un risolvimento alla propria sofferenza, alla propria paura, magari di una morte imminente per sé o per i propri cari. C'è anche da dire altro, ossia, beh, si fa chiamare mamma, che dice, o almeno diceva, di parlare in nome di Dio, di Gesù o della Madonna, e quindi si colloca nell'ambito cristiano. Vuol dire che è già predisposto a una profezia che chi è dalla parte di Dio verrà perseguitato, verrà condannato come un malfattore, come un impostore, eccetera. Per cui è già insito all'interno di questa struttura mentale l'idea di una persecuzione, di un discredito. E oltre ai frequentatori delle case di Mamma Ebe, quelli che vanno a farsi benedire, a farsi guarire, secondo loro, ci sono dei personaggi che vivono con lei per anni. E se entriamo nelle stanze del suo ordine misericordioso, i suoi adepti hanno accettato forti limitazioni della loro libertà, punizioni psichiche e corporali pur di far parte di questo santo gruppo, secondo loro. Sì, io credo che Mamma Ebe veramente sia persona scelta da Gesù, scelta dalla Madonna per passare dei messaggi, per fare dei miracoli sulla terra, per portare la guarigione, e hanno scelto lei. E al momento in cui scelgo di servire Dio, perché ovviamente a questo punto c'è una simbiosi, no? La mamma rappresenta Dio, l'autorità massima, e io decido di servire Dio, beh, a Dio ubbidisco senza possibilità di critica, la volontà di Dio subisce e basta. Anche se questo vuol dire soffrire, anche se questo vuol dire limitare la propria libertà o subire delle punizioni importanti. Mamma Ebe ha iniziato a operare negli anni 70, oggi sono passati 40 anni. Quel retroterra culturale fatto di superstizioni è sicuramente cambiato. Eppure abbiamo chiesto a Patrizia Santovecchi, autrice del libro Soffrire di magia con Chiara Bini, se ci sono ancora santoni e guaritori in Italia, e avevamo paura di quello che ci avrebbe risposto, e infatti ci ha risposto così. Sicuramente sì, è un numero crescente, perché più cresce il disagio sociale, più queste persone riescono a trovare spazi per le loro dottrine e per le loro soluzioni. Dopo aver scontato la sua pena agli arresti domiciliari in Versilia per associazione delinquere e esercizio abusivo della professione medica, oggi Mamma Ebe, che arriva alla ragguardevole età di 83 anni, risulta libera. Perché la nostra scelta di raccontare ogni giorno vite straordinarie non implica il fatto che queste vite siano per forza votate al bene. Qui abbiamo un colpo d'ala discutibile, se non riprovevole, se non ripugnante, di una donna che, approfittando della debolezza psicologica di persone che stanno soffrendo, ha costruito un impero ed ha avuto ancora persone che le credevano. Questo è il cupo colpo d'ala della nostra protagonista, Mamma Ebe. Se avete delle storie che volete che noi si racconti, scrivete al falcoilgabbiano@radio24.it, oppure venite a cercarmi sui miei social, sui social del Falco il Gabbiano. Insomma, se volete mi trovate. Ciao, a domani.